cambi, non vedo tasti sul mio corpo. Non mi cambi, se mi baci resto sempre un rospo. Non mi cambi come il testamento di un defunto. Non mi cambi come un tovagliolo quando è unto. Non mi cambi come un assegno in banca. Non mi cambi come un giocatore quando si stanca. Non mi cambi come un capo in saldo. Non mi cambi, la mia certezza è un caposaldo. Non mi cambi come la pelle dei serpenti. Non mi cambi come il corso dei torrenti. Non mi cambi come la pagina di un fax. Non mi cambi come Neffa che duetta con J-Ax. Non mi cambi come un nome sulla rubrica. Non mi cambi come un amico d'una amica. Non mi cambi come una corsia in autostrada. Non mi cambi come l'impugnatura di una spada. Non mi cambi come un loculo in un cimitero. Non mi cambi con un falso perché sono vero. Non mi cambi come da sposato il tuo cognome. Non mi cambi anche se dimentichi il mio nome. Tu non mi cambi come una sentenza in terzo grado. Tu non mi cambi come il presente se è passato. Tu non mi cambi come un delinquente se è peccato. Tu non mi cambi andrò all'inverno se avrò peccato. Tu non mi cambi perché sono già cambiato. Tu non mi cambi come cambia il risultato. Tu non mi cambi come le tue scommesse. Tu non mi cambi, sono la N e la doppia S. Non mi cambi, lo prometto, non mi cambi. Non mi cambi. Non mi cambi come cambi un gioiello. Non mi cambi come una troia in un bordello. Non mi cambi, io sono una persona. Non mi cambi come cambi un'icona. Non mi cambi come le carte in mano a poker. Non mi cambi come sorrisi in faccia a Joker. Non mi cambi come un quadro sul tuo muro. Non mi cambi come non vuoi cambiare il mio futuro. Non mi cambi come una stronza cambia fidanzati. Non mi cambi come una sbronza con gli alcolizzati. Non mi cambi come una rima scritta con l'inghiostro. Non mi cambi neanche se preghi il Padre Nostro. Non mi cambi come una traccia sull'iPod. Non mi cambi, io ascolto solo i pop. Non mi cambi come una fiscia al casino. Non mi cambi, se sono convinto ti rispondo ancora no. Non mi cambi come cambi un sentimento. Non mi cambi, questo è solo un avvertimento. Non mi cambi come un record del Guinness. Se non l'hai capito non mi cambi perché sono Ness. Tu non mi cambi come una sentenza in terzo grado. Tu non mi cambi come il presente se è passato. Tu non mi cambi come un delinquente se è peccato. Tu non mi cambi andrò all'inverno se avrò peccato. Tu non mi cambi perché sono già cambiato. Tu non mi cambi come cambia il risultato. Tu non mi cambi come le tue scommesse. Tu non mi cambi, sono la N e la doppia S. Non mi cambi, lo prometto, non mi cambi. Non mi cambi. Non mi cambi, non mi cambi, non mi cambi, non mi cambi, non mi cambi.